Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Una sera beviamo un po' più del solito e va a finire che ci baciamo. Due giorni dopo lei mi chiarisce che è stato solo un episodio dovuto all'alcol e a un suo momento di fragilità psicologica. Avete presente quando non c'è bisogno di spiegazioni? Beh, questo era uno di quei momenti. Però intanto Daniela l'avevo tradita ed ero rimasto scioccato perché non l'avevo mai fatto. Mi sento una persona cattiva. La lascio. Mi chiamo Valerio Cricchio, ho 29 anni, vivo a Palermo e sono studente universitario. Qualcuno teme che io diventi un eterno studente universitario. Da I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. 10 settembre. Che notte, Guglielmo. Ora io posso sopportare qualunque cosa. Non la vedrò più. Potessi volare tra le tue braccia ed esprimerti, caro amico, con le mie lacrime, i miei slanci, tutti sentimentali, tutte le agitazioni del mio cuore. Ora siedo qui, anelante, cerco di calmarmi, aspetto il mattino, ecco il sorgere del sole, i suoi cavalli saranno pronti. Avevo già trascorso una mezz'ora immerso nei tristi e dolci pensieri della separazione, del rivedersi, quando li sentii salire sulla terrazza, corsi loro incontro e con un brivido presi la mano di lei e la baciai. Lei cominciò a dire: «Noi avremo una seconda vita, Werther. Ci potremo ritrovare, riconoscere. Che cosa ne pensate, voi?» «Carlotta», dissi. Le tesi la mano mentre gli occhi mi si riempivano di lacrime. «Ci rivedremo qui e lassù. Noi ci rivedremo». «Ci rivedremo», gridai. «Ci ritroveremo e fra tutti ci riconosceremo». «Vado via», continuai. «Vado via volontariamente». «Addio, Carlotta». «Quando ci rivedremo? Domani, penso», disse lei scherzando. Sentii questo domani e rimasi fermo. Li seguii con lo sguardo nel chiarore della luna. Mi gettai a terra, piansi e mi rialzai improvvisamente. Corsi sulla terrazza e vidi ancora da lontano, all'ombra dei grandi tigli, il suo abito bianco luccicare presso la porta del giardino. Tesi le braccia e lei sparì. Ecco, ho cominciato questa puntata leggendo un pezzo dei dolori del giovane Werther che tutti hanno sentito nominare quando eravamo ragazzi. In pochissimi probabilmente avranno letto, se non dei riassunti sui bigini o adesso su Wikipedia. E leggendovi questo brano io vorrei chiedervi veramente oggi, ascoltando questa puntata, di lasciare a casa la vostra ipocrisia, di togliervi quel sorrisetto furbo che dice: sì, vabbè, quante volte l'abbiamo vissuta, ci avevamo 20 anni, ne avevo 16, perché questo è esattamente tutto ciò che ho pensato quando io ho letto il racconto di Valerio. Quando ho letto il racconto di Valerio ricordo che chiamai Tiziano Bonini e dissi: Tiziano, ci abbiamo una bomba tra le mani. E mi ricordai anche che in realtà con Valerio c'era già stato uno scambio epistolare, quasi da lo scambio che c'è tra il giovane Werther e il suo amico Guglielmo. Io ero un po' Guglielmo per il giovane Valerio, che era un po' il giovane Werther, che mi scriveva chiedendomi dei consigli sentimentali, manco fossi Natalia Aspesi, e io più che altro non sapevo cosa rispondergli, finché è arrivato questo racconto. Ecco, io vorrei, appunto, ripeto, che vi toglieste quegli occhiali da sì, lo so già, l'abbiamo già passata questa storia, e mi piacerebbe che magari prendeste il telefono, il cellulare in mano, 349-238-6666, e mi raccontaste la vostra storia d'amore più travagliata della gioventù, in modo che anche la vostra sia i dolori del giovane puntini puntini, come diamine vi chiamate, uomo o donna che siate. 349-238-6666. Ecco, la storia di Valerio, vi ripeto, sedetevi un secondo, quanto durerà? Durerà 7 minuti il racconto della storia di Valerio, quindi prendetevi questi 7 minuti, abbandonate quell'ipocrisia che ormai vi portate dietro da anni, quel cinismo che vi farà sembrare ridicolo quello che vi sto leggendo, e cercate di mettervi nei panni di questo ragazzo che vive a Palermo. Dobbiamo parlare, non so dove andremo a finire, però tu, Ilenia, lasciala. Questo è l'SMS che ho ricevuto da Carmen. È da qui che comincio a riguardare i mesi appena passati e ve li racconto. Lo faccio mentre sono sull'autobus che ho preso per andare da lei, perché dobbiamo parlare, l'ha detto lei. E poi devo capire cosa vuol dire veramente e perché vuole che lasci la mia fidanzata. Comincio dalla prima volta che ci siamo incontrati. Comincio lì questo racconto. È un sabato di novembre, in Piazza Politeama. Mi piace, Carmen. Parliamo. Sul momento mi dà l'impressione di essersi trovata anche lei bene con me, quindi nei giorni successivi la cerco via SMS. Poi però mi dice che è meglio che non ci vediamo e non ci sentiamo più perché non le piaccio e mi vede troppo preso da lei. Io penso che è una donna e quindi è incomprensibile e lascio perdere. Qualche settimana dopo mi metto con Daniela. A maggio io e lei ci rincontriamo in università. Lei fa finta di niente e mi parla di studio e di un tizio che le piace. Si capisce che c'è qualcosa tra noi, ma io evito di fare domande. Lei mi chiarisce subito che fra di noi può esserci solo un'amicizia e basta. E lo sapevo, perché a una donna basta non chiederle niente, che ti dice tutto. Le dico che mi piace averla come amica. Con il tempo cominciamo anche ad uscire assieme, sempre da amici ovviamente, cose tipo cinema o mostre. Una sera però beviamo un po' più del solito e va a finire che ci baciamo. Due giorni dopo lei mi chiarisce che è stato solo un episodio dovuto all'alcol e a un suo momento di fragilità psicologica. Avete presente quando non c'è bisogno di spiegazioni? Beh, questo era uno di quei momenti. Però, intanto, Daniela l'avevo tradita. Ed ero rimasto scioccato, perché non l'avevo mai fatto. Mi sento una persona cattiva, la lascio. Carmen è una ragazza che, anche se lei stessa non... come posso dire, non lo capisce, non se ne rende conto, per me comunque bellissima. È una ragazza molto forte, una forza che comunque in molte altre ragazze, molte altre persone non ho mai visto. Io e Carmen passiamo un'estate tra momenti di confidenza e momenti di litigio, ma anche quando siamo ad un passo della rottura totale, troviamo sempre il modo di riavvicinarci. Io mi accontento e lei non perde occasione per specificarmi che ormai mi vuole troppo bene, ma solo da amica, perché come uomo non posso e non potrò piacerle mai. E che anzi, se io mi trovo un'altra ragazza, lei ne sarebbe contenta, così sarebbe sicura che io non penso a lei. Che bello sentirsi dire parole del genere. A lei comincia a piacere un altro della compagnia, si chiama Mario. Io non sono geloso, ma mi irrita quando lei ride alle sue battute che non fanno ridere. Io nel frattempo mi metto con una ragazza di Ficarazzi, Ilenia. Mi piace e non mi fa pensare a Carmen, che intanto ha lasciato a piedi quel Mario nel giro di un paio di giorni. Penso che con la presenza di Legna anche Carmen sarà più rilassata. Non si sentirà più ossessionata da me, che peraltro non facevo niente per darle fastidio. Illuso. Per qualche tempo mi dedico con tutto me stesso a Legna, che mi piace parecchio, è sincera e dolce. Carmen se ne accorge e naturalmente si arrabbia. Dice che non ha più stima di me. Intanto io sono sempre sull'autobus, la strada è lunga, ma mi serve per fare mente locale. Mi serve per cercare di mettere insieme i cocci di tutta questa lunga e travagliata storia. Allora ripenso alla sera del suo compleanno e all'incidente con cui distruggo la macchina, ma non mi faccio niente. Solo che con la macchina in quelle condizioni non posso riaccompagnare Carmen. Lei non ha pietà, se ne sbatte della mia disavventura e si fa portare a casa da Mario. E poi quel martedì della settimana prima, quando lei va a fare l'esame di organizzazione aziendale e io le tengo compagnia nell'attesa. Esame passato e festeggiamento a casa mia per pranzo. Lei è molto giù per via di Mario, che a quanto pare è di nuovo in pista, ma che la tratta male. E allora io cosa posso fare? La abbraccio. Naturalmente ci baciamo. E così succederà per tutta la settimana. Incontri, abbracci, parole, tutto quello che a me sembra amore. Ci chiediamo che rapporto sia il nostro e lei mi dice che dobbiamo allontanarci, perché non è giusto nei confronti di Legna, ma continua comunque a cercarmi. Mi dice che non le piaccio, che non mi vede come uomo che possa starle accanto. Io penso che su cose come queste ci hanno scritto dei libri. Ma cosa posso fare? Ovviamente soffro moltissimo. In più non mi faccio mancare un senso di colpa estenuante verso la mia fidanzata ufficiale, che non riesco quasi a guardare negli occhi, ma che non penso mai di abbandonare, perché è sorridente, trasparente, normale. E poi arriva questo SMS. Dobbiamo parlare. Non so dove andremo a finire, però tu lascia Ilenia. Alla fine del viaggio in autobus, dopo tutti i pensieri, dopo ho ricapitolato in testa tutto quello che è successo, che avevo come il pensiero di dire ma forse mi è sfuggito qualche cosa. Poi, arrivato alla fine del viaggio, che è proprio un momento prima, proprio appena ho visto le cielo, il momento prima di fermi con le piedi salire, ho pensato, siamo qua, vediamo che succede. Ed eccomi, sono arrivato. Citofono e lei mi apre. Carmen. è bellissima. Potrebbe prendermi a schiaffi o darmi un biglietto della lotteria, ormai nulla mi sorprende più. E invece mi riempie la bocca con la sua. Mi tira per la maglietta, mi trascina in camera. Io non ho volontà. Lei si distende sul letto e io la guardo. Mi siedo sulla sedia per contemplarla meglio e aspetto che lei faccia un passo verso di me prima di togliermi i vestiti. E prima che io possa fare qualsiasi cosa, lei comincia a parlare. Mi dice che in casa c'è sua madre e che la porta è meglio che rimanga aperta. Ah, non me ne ero accorto. Mi dice che parlando con sua cugina, la sua più grande confidente, capisce che prova qualcosa di forte per me. Che lei in realtà cercava di non farsi piacere a tutti i costi me, perché non ero come il suo uomo ideale, ma non ci riusciva. Arrossisce, guarda fuori dalla finestra. Mi dice che sono bello. Io quasi dimentico che non siamo soli in casa e mi avvicino. Capisco che l'ho inseguita per tutto questo tempo, fin dal primo incontro, a novembre, e che chiunque altra sarebbe stata solo un inutile ripiego. E poi a lei sono baci rubati, carezze nascoste agli occhi di sua madre e sguardi e promesse, finché non fa buio e non decido di uscire e andare da Ilenia per dirle che è finita. E quanto leggero mi sia questo compito, non lo immaginavo. Lo faccio quasi col sorriso sulla faccia. Non mi dispiace per lei, perché non mi aveva mai avuto. Io amavo un'altra, e neanche lo sapevo. It took the last 10 minutes to tell. If love is gone, where do we go from here? I used to think that we had a choice. It was a lie, I've never been there. So the world we started out to believe in should be found another way. E visto che, come vi dicevo e come vi dico spesso, i racconti che ci mandate, a voi siete qui, @radio24.it, arrivano e noi li mettiamo insieme, li leggiamo in un colpo solo, a tranche più o meno, e poi li mandiamo in onda, è praticamente da dicembre che io aspetto questo momento. È stato da quando ho letto per la prima volta il racconto di Valerio che ho detto: io ho necessità di parlare con questo ragazzo, perché voglio capire esattamente cosa succede. E anzi, vi dirò di più. Io, quando ho letto questo racconto, ho pensato: questo ragazzo sta andando a 200 all'ora a sbattere contro un muro e si farà probabilmente del male. E invece c'è una buona notizia che però vorrei vi desse direttamente lui. Pronto, Valerio? Pronto. Come stai? Io bene, benone direi. Senti, la buona notizia che vorrei che dessi tu è che tra te e Carmen... Certo, restiamo assieme. Oh, è stata ancora insieme. E se abbiamo la Carmen, mandiamola direttamente a questo punto sotto come base. Da quanto state insieme praticamente? Adesso giorno 21 facciamo 5 mesi. Giorno 21 febbraio, 5 mesi. Olè. Sì. Perché, quindi, scusami Valerio, era il 21 di settembre. Sì, era il 21 di settembre. Giorno di questo viaggio in autobus. Eh sì, il giorno di questo viaggio in autobus. Veramente era il 20, poi noi però consideriamo il 21 perché poi il giorno dopo, poi alla fine è andato Ok. Senti, invece un paio di cose che volevo chiederti, Valerio, sono tu usi, diciamo, un paio di termini che sono ricorrenti in questo racconto e che forse dovrei probabilmente chiedere a Carmen se fosse qui, ma li chiedo direttamente a te. Uno è il termine solo amici. Due parole chiave: solo amici e ossessione. Lo usi una volta sola, però c'è questo tuo timore, diciamo, nell'approccio a questa storia, di essere un po' una palla al piede e un po' ridurti a quel ruolo lì, no? Quello dell'essere solo amici. E poi come l'hai portata a casa? Perché ti assicuro, se mi avessero chiesto di puntare dei soldi, io, ma ti giuro, Valerio, con tutto il bene che ti voglio e ti potrei volere, non li avrei mai puntati su di te. Beh, a dire il vero, diciamo che sono stati vari fattori. Intanto il fatto che sappiamo che sono messo con quest'altra ragazza di carattere, lei ha cominciato, diciamo, un po' a sbiellare, non capiva il perché. Scusa, hai usato il termine sbiellare. Sbiellare nel senso impazzire. Ok. Poi, più che altro devo ringraziare anche la sua cugina, che è quella con cui lei si confida spesso, la che confidente. Diciamo... Gli ha fatto capire, parlando con lei, ha capito molte cose e quindi adesso... Come si chiama la cugina, Valerio? La cugina si chiama Teresa. Teresa, allora ringraziamo tutti Teresa, grazie a lei siamo qui a raccontare questa storia anche in parte. Perché, direi sì. Perché guarda, ti assicuro che è andata così, che io ho letto questa storia e poi sono andato su Facebook per cercare il tuo profilo e ho visto che nella foto del tuo profilo eri con una ragazza e quindi ho immaginato, cioè in realtà ho sperato fortemente che fosse Carmen e poi ho visto che addirittura avete scritto ufficialmente fidanzato con eccetera eccetera. Sì. Senti, parliamo di un'altra cosa anche perché... Prima leggendolo il tuo racconto sembrava un po' la fotografia, no? Di un'epoca di due ragazzi che si amano follemente e che hanno 29 anni e che sono ancora all'università però. Vabbè, lei ne ha 25, io ne ho sì, 29, sì. Ok, e che cosa studi? O cosa provi a studiare, Valerio? Ah beh, no, allora, ora economia e amministrazione aziendale, però io ho avuto una vita universitaria piuttosto... travagliata, ecco. Ho cambiato un paio di volte corso di laurea, adesso però sono ben impostato. Ecco. Grandissimo, quanto ti manca? Sono 8 materie, se tutto va bene dovrei finire di darle a dicembre. E scusami, e poi dopo questo tipo di studi cosa ti... perché cosa, verso cosa ti proietta? Dopo... Comunque posso lavorare su questo banco, fare il dottore commercialista, diventare contabile, queste cose. Vale, guarda, ti sento, sinceramente Valerio, ti sento molto più concentrato su Carmen che non sul lavoro. Beh, però lo capisco anche, visto la difficoltà con cui ci siamo arrivati. Senti, ma quindi abbiamo dei progetti con questa ragazza o stiamo scherzando ancora? No, niente scherzi, progetti seri, anzi una, diciamo che certi progetti sono anche una motivazione per fare bene all'università, fare bene e presto, ecco. Valerio, quindi diciamo a mezza bocca, ma nemmeno tanto, ci stai dicendo che stiamo parlando di nozze? Prendiamo una decisione, ci abbiamo 29 anni, non abbiamo ancora finito l'università, decidiamoci. Sì, per farti sostenere il prima possibile, la speranza che... Insomma, si arriva. Certo, perché non vivete insieme. Sono concentrato sullo studio, cercare di... Bravo. Cosa stai studiando adesso, Valerio? Adesso... Non lo sai. Economia politica e diritto commerciale. Benissimo. Quando è che hai visto Carmen l'ultima volta? Quando è che l'ho vista? Come quando è che l'hai vista? Ieri, spero, stamattina. No, comunque sì, stamattina. Cioè, quante volte vi vedete a settimana, più o meno? Per ora, quando è possibile tutti i giorni. Per ora, magari per motivi di studio, sono giorni che non ci vediamo, perché magari lei deve preparare materie. Perché giustamente, scusami, la domanda è retorica, ma non è banale, non vivete ancora insieme? Infatti, ecco. Senti, ma lei lo sa che tu hai questa intenzione di matrimonio, oppure... Glielo dobbiamo dire ancora? Lei lo sa che tu hai in mente delle nozze oppure no? Sì, lo sa. Ed è contenta, ok. Senti, invece l'ultima cosa l'hai fatto per San Valentino? Non darmi una delusione, Valerio. Poi abbiamo passato una serata fuori, c'è una cena fuori. Bravo. Stasera dove la porti? Stasera non so... Stasera nel senso non so se riusciamo, probabilmente magari domani, però stasera ci sono purtroppo anche impegni di studio. Lo immagino. Oppure al calcio, di solito il giovedì c'è il calcetto. Senti Valerio, io ti ringrazio molto per il racconto e vi faccio davvero un sacco di in bocca al lupo a te e a Carmen. Salutamela tanto. Senz'altro, per il lupo. Ciao Valerio, grazie mille. Grazie a te. Ciao, buona serata. Cosa posso dire? Non ho capito. Un'ultima cosa posso dire, grazie a te anche per il racconto, perché sto racconto letto da me sembra una cosa nuova. Guarda, invece forse era l'unico caso in cui mi sarebbe piaciuto l'avessi letto tu. Comunque, grazie ancora. Ciao Valerio, buona serata. Ho incrociato i suoi occhi il 23 aprile del 1988. Dietro quegli occhiali ho visto la mia vita. Le nostre vite sono ancora differenti, ma so che arriverà il nostro momento. Ti amo Luca, Cri e Ale. Voi siete qui. E so che a questo punto non potrete fare a meno di andare sul sito di Radio 24, la pagina di Voi siete qui, per guardare la foto di Valerio e Carmen. Sono abbracciati, guardano felicemente l'obiettivo, sono credo su un lungomare, lungomare così a naso, essendo di Palermo. potrebbe essere Mondello. È estate, fa caldo, però essendosi conosciuti a settembre sarà stata la fine dell'estate. Hanno la testina appoggiata l'uno all'altro, sono sorridenti, e sono bellissimi. E giustamente è vero quello che mi dice Tiziano, che Valerio, cioè Carmen è felice in questa foto, ma Valerio sembra veramente contento, è come se ce l'avesse fatta, cioè ho vinto questa partita. Ringraziamo, ricordiamo Teresa, che è la cugina e che è stata la persona che comunque ha aiutato a far sì che loro fossero qui e noi fossimo tutti qui a raccontare questa storia. 349-238-6666. Ringrazio anche tutti quelli che sia sul profilo Twitter del programma, che voi siete qui, ma anche sul profilo Facebook di questo programma, che invece è Matteo Caccia, io sono qui, cominciano a dare pareri su come andrà questa storia. Allora, non è Uomini e Donne questo programma, non sono Maria De Filippi, non ci interessa sapere se secondo voi va oppure no. Questa è la storia, lui ha fatto di tutto per mettersi con lei, ce l'ha fatta e ce l'ha raccontato. Io ringrazio lui e i dolori del giovane Valerio per averlo fatto. Si chiamava William, mi scrive Simona. Avevo 15 anni, non l'ho mai dimenticato e l'ho cercato per anni su Facebook, ma il ricordo era molto diverso dal presente, perché quindi evidentemente l'ha trovato. Piango ancora quando leggo il diario di allora. Sono passati 20 anni, sono sposata e felice, ma a volte lo sogno. Simona. Sono stato innamorato dai 12 ai 18 anni di una compagna di scuola senza mai riuscire a dirlo, se non quando si è messa con un altro. Vale come dolore? Beh, direi che vale come. Poi Michele da Milano scrive un messaggio sintetico ma sintomatico, che dice: donne, puntini puntini, Michele da Milano. Mi piacerebbe che arrivasse magari un messaggio che dice: uomini, Francesca da Brescia. E poi questo genio, io guarda, ti giuro, ti leggo solo perché ho riso per 5 minuti quando ho letto questo messaggio. Il messaggio è: e sono le 16:30 e tutti noi sappiamo che Focus Economia comincia alle 17. Barisoni può affrontare il problema dell'equo canone e il momento attuale dell'edilizia italiana? Grazie, e non è finito qua il messaggio. L'ascolto per radio sorseggiando un buon infuso. Ma perché? Però grazie, guarda, mi rallegri queste parte di queste giornate. 349-238-6666. Sono arrivate diverse mail che raccontano i dolori del giovane, cioè le storie d'amore più travagliate. Io mi riferivo all'infanzia, perché in teoria di solito infanzia o giovine età, alla fine Valerio ha già 29 anni, ma tant'è. Mi riferivo all'infanzia quando le chiedevo. E invece è arrivata una mail che non parla di infanzia, parla in realtà di un'intera vita, e comincia quando il protagonista, che si chiama Stefano, aveva 16 anni. Ciao Matteo. Questa è la storia di una passione nata durante un'estate al mare. Una ragazza semplice e bellissima. Avevamo 16 anni io e lei, e ogni anno ritornava a trovarmi in quella spiaggia che d'inverno diventava cupa senza di lei. Ho passato anni a scriverle lettere piene di sentimenti mai palesati, se non qualche piccolo bacio furtivo, ma solo durante l'ultima stagione. Poi, il vuoto. Ci sentivamo di tanto in tanto, una telefonata a Natale, ma soprattutto per i compleanni. Per anni non abbiamo mai dimenticato quelle due date, i nostri due compleanni. Rimanevano scolpite nelle nostre menti e ovunque fossimo non dimenticavamo mai di farci gli auguri. Poi, anni dopo, arrivarono i telefonini e finalmente le mail. Quello strumento che ci permetteva di rimanere più vicini, anche se molto lontani. Esattamente 10 anni dopo, una telefonata. Ciao, a maggio mi sposo. Silenzio. E poi: senti, ad agosto mi piacerebbe venire al mare lì da te. Mi trovi un posticino per me e mio marito? Da lì iniziò un lungo calvario fatto di sguardi, sorrisi e complicità, sfociata un giorno in un bacio appassionato in mezzo alla strada, sopra uno scooter. Era il 19 agosto del 1999, il giorno del suo compleanno. Qualche mese di intensa passione sfociata in un litigio, subito dopo la separazione. Da suo marito e da me. Non ci sentimo più, nemmeno più per quei compleanni, nemmeno il 19 di agosto. Passarono anni e il tempo aiutò a guarire ogni ferita. Anni dopo seppi che aveva conosciuto un'altra persona e aveva deciso di condividere la vita con lui. Io la pensavo sempre. Passavano anni, cambiavo compagni, ma pensavo sempre a lei. A quel frutto che non era mai riuscito a cogliere fino in fondo e che per me pareva sempre bello, sempre giovane. Poi 3 anni fa, esattamente 10 anni dopo quel 1999, ricevo un'altra telefonata. Ciao, Il mio compagno è mancato. Se n'è andato in un paio di giorni. E poi ancora. Posso venire lì da te? E venne ancora da me. Era più vecchia, ma sempre bellissima. Solo era diventata più dura, distaccata, con sé e con gli altri. Di una durezza che fa trasparire la sofferenza passata. Durò poco più di un mese e dopo aver festeggiato quel 19 agosto sparì di nuovo, fino all'anno dopo, in cui ritornò per l'ennesima volta. Io non resistevo, la volevo a tutti i costi e provavo in tutti i modi a stare con lei. Fino ad una fatidica domenica di giugno in cui a casa sua mi sentii di troppo. Sentii che non ero unico per lei come lei lo era stata per me. E me ne andai. Me ne andai con un non chiamarmi mai più. Quella frase che ancora ora mi pento di aver detto. Eliminai pure l'account su Facebook, su Skype. Vuoto e silenzio assoluto. Da 2 anni. 2 terribili anni in cui tuttora non so ancora niente di lei. Anche se tutti i giorni, dopo più di 25 anni, mi ritrovo ancora a pensare a lei. Ora, da anni, il 19 agosto prendo il telefonino in mano, lo guardo e lo ripongo nel taschino. Rooting bites hard and ambitious are low. And a segment writes high, but emotions won't grow. And love will tear us apart again. Qualcuno evidentemente è già andato a vedere la foto di Valerio e di Carmen perché mi scrive: c'ho idea che Valerio sia lo spensierato che ha il solito sorriso a tutta dentiera in tutte le foto. Secondo me questa è solo invidia. E poi qualcuno non è d'accordo col fatto che con quello che dico, che Valerio ha fatto tanto, ha combattuto. Ma che ha fatto Valerio? Ha fatto tutto Carmen. E effettivamente possiamo essere d'accordo. È arrivato un altro messaggio sul profilo Facebook di Rina, Rina Luna, che credo sia cubana. Ciao, sono Rina e ho 34 anni e ancora oggi mi innamoro come un adolescente. L'amore è troppo bello e fa ringiovanire. Olè Rina! Domani siamo in onda dalla Borsa Internazionale del Turismo, che si trova alla Fiera di Ropero di Milano. Non è aperta al pubblico, però se lavorate lì e avete voglia di passare, siamo lì, non mi ricordo, padiglione allo stand, quello lì, cioè, vabbè, c'è sito Radio 24, siamo l'unica radio, siamo la radio ufficiale della Beat, quindi alle 4 in diretta siamo lì. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina e a Paolino Corleoni. La strada di oggi era la strada di Carmen e parlava di amori e giovani dolori. Quella di domani è di Cristina e parla di incontri di viaggio. E così una sera arriviamo a Calav. È una cittadina di montagna, spersa nel nulla. Di turisti qui non ne arrivano molti. Sarà solo una tappa intermedia per spezzare il viaggio. Ma decidiamo di uscire dalla guest house e andare in paese per cenare. E qua, per caso, conosciamo Tommy.